24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7.31, scoccate in questo istante. Eccoci, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Riparte 24 mattino per una nuova settimana. E allora, oggi parliamo di magistrati ai quali la manovra non piace, una manovra che è sballata, è sbagliata, e i magistrati dunque hanno proclamato uno sciopero. Ne parleremo alle 8.30 perché il ministro Alfano ha definito questo sciopero uno sciopero politico. Vi chiediamo questo: secondo voi è uno sciopero politico oppure i magistrati hanno ragione nel nostro sondaggio per i tagli alla manovra? Alle 8.30 ne parleremo, dovete votare su radio24.it, nell'home page ci trovate, bianco o nero. Alle 8.30 approfondiremo, e ora la lettura dei giornali. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In primo piano. Sono sempre i tagli, la manovra in questo lunedì di 7 giugno che tengono banco sui giornali, perché la manovra, tra l'altro, da domani approda al Senato. Tutti i tagli città per città. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, che fa un'interessante analisi su come il nuovo patto di stabilità inciderà sui comuni, sui nostri portafogli, cari concittadini. Calderoli, tagli al calcio. E l'apertura del Corriere è un po' il tema più gettonato. Allarme debito, l'Europa accelera per Repubblica. Pensioni, il governo accelera per La Stampa. Il giornale è assolutamente definitivo: un esercito di papponi, zavorre d'Italia. Per il Messaggero ancora le pensioni, si alza l'età per le donne. Il rigore di Calderoli sul Quotidiano Nazionale. È la vicenda del calcio, ma io voglio partire oggi dal secolo XIX, perché il secolo XIX intervista, ed è la prima volta che parla, l'ex ministro Scajola. Sono pulito, qualcuno pagherà. È la pagina, prima pagina del secolo XIX, Marco Menduni intervista l'ex ministro Scajola, che per la verità fa un'intervista, intera pagina 3, nella quale non è che si addentra molto nei particolari, nella vicenda della casa comprata, non si sa bene come, da chi, in parte da chi, a Roma con vista Colosseo. Ma è una difesa così, una difesa molto accurata di Scajola. Continuino a cercare, non troveranno nulla. Io non ho mai fatto piacere a nessuno, non ho ricevuto piaceri da nessuno. Alla fine di questa storia la verità verrà a galla, ognuno dovrà assumersi le sue responsabilità. Su Balducci, era la massima autorità in Italia nel ramo dei lavori pubblici, un uomo stimatissimo da me, ma forse anche da lei, sicuramente da chiunque lavorasse in quel campo. È molto facile parlare a posteriori. E ancora, non temo la verità, mi sono dimesso per rispetto a me stesso, alla mia famiglia, al governo, per essere più sereno nell'affrontare la situazione. Per difendersi, chiede Marco Menduni, non mi devo difendere, non sono nemmeno indagato, constato un'altra cosa. Nei miei confronti, una persona non indagata, è stato montato un massacro mediatico che non ha pari nella storia di questo paese. Mi sono dimesso, accusato mediaticamente sulla base di elementi che a quanto risulta non coincidono coi fatti appurati nell'inchiesta. Insomma, vedete, una difesa molto arzigogolata, così proprio passionale. Anche sulla domanda che cosa intende, ci sono cose apparse su alcuni giornali date per scontate ma non corrispondono alla realtà, e cioè non si ritrovano negli atti, vuol dire che negli atti sono esposte in modo diverso da come raccontate dai media. Insomma, non si capisce bene, sembra quasi Scajola che voglia dire, non dice quello che è. Però il succo di questa intervista è che intanto è la prima volta che parla, e poi dice: è stato un massacro mediatico, non sono indagato, alla fine la verità verrà fuori. Lo cito in apertura, ripeto, lo scoop del secolo XIX. Per la prima volta parla l'ex ministro Scajola. Ma ora veniamo al calcio. Oh, i tagli nel mondo del calcio. Calderoli ha deciso, dopo la Rai, di prendersela col calcio. Ridurre i premi ai calciatori. Calderoli sfida la nazionale, tra l'altro suscitando un vespaio di polemiche anche all'interno della stessa nazionale. Tra l'altro, la cosa interessante di Calderoli è questa, attenzione. Perché dice: il mio può essere solo un appello, non è che possiamo intervenire negli ingaggi del calcio, ma vorrei che la Federcalcio riducesse tutti i premi previsti. Però Calderoli dice: attenzione, Sentite il Corriere della Sera. Sugli stipendi dei calciatori non si può intervenire, sui CIP 6 invece sì. Ora, cosa sono questi CIP 6? Il CIP 6 è una delibera del Comitato Interministeriale che definisce gli incentivi per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate. È una voce che, se andate a vedere la vostra bolletta dell'elettricità, trovate, pagate per il CIP 6. Tra queste fonti rinnovabili assimilate, gli scarti di lavorazione delle raffinerie. Un riferimento quindi all'Inter del petroliere Moratti. E infatti sul Corriere della Sera sentite Calderoli che fa un'intervista con Marco Cremonesi, ce l'ha con l'Inter. Ora è tutto spiegato. No ai petrolieri che pagano gli ingaggi coi soldi pubblici per lo smaltimento. C'è chi compra giocatori all'estero, non fa vivaio, paga gli allenatori e giocatori decine di milioni. Non è più il momento. Così Roberto Calderoli. C'è chi non ha problemi a pagare ingaggi multimilionari, pagarli per giunta a giocatori o allenatori stranieri. Questa forse è l'accusa più grave. E dice Calderoli, lei sa cos'è il TAR? Chiede lui, il giornalista dice, cos'è il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale? No, questo è un altro TAR. Io parlo dell'ultima scoria della lavorazione del petrolio, l'ultimo rifiuto di raffineria. Questa è roba che un'azienda dovrebbe pagare per smaltire. Invece, grazie a una legge, c'è chi la brucia e prende pure i soldi dallo Stato per produrre energia pulita. Ma chi vogliono prendere in giro? Insomma, ministro, lei ce l'ha con l'Inter. Io so che ci sono centinaia di milioni che ogni anno finiscono nelle case di chi raffina il petrolio. Certamente chi può contare su questi introiti ha meno difficoltà a fare la sua campagna acquisti e a vincere gli scudetti. Questo deve cambiare. E infatti chi è che se l'è presa di più all'interno del governo dicendo Calderoli parli della Padania? La Russa, che non è un ministro della difesa ma è anche un noto sfegatato interista. Allora è tutta qui la questione. No ai soldi non del calcio ma del calcio dei petrolieri, e la Russa, ministro della difesa, tifoso interista, si occupi della Padania. Vogliamo parlare dell'altro tema che campeggia sui giornali legato al calcio, quello del presunto labiale di Marchisio, che durante l'ultima amichevole avrebbe cantato l'inno storpiando e aggiungendo al che schiava di Roma, avrebbe detto che schiava di Roma ladrona. Questo dal labiale su un video che impazza già su YouTube con tante anche già delle storpiature, c'è cioè chi dà le proprie interpretazioni. Io per una volta devo fare mia la frase di Cannavaro. Cannavaro ha dichiarato su tutte queste polemiche: siamo un paese ridicolo. Io per questa volta sto con Cannavaro, assolutamente. Tra l'altro ieri mi sono visto questo labiale per 3, 4, 5 minuti, mi sembra assolutamente una follia. Marchisio si capisce probabilmente dal labiale che o perde il tempo o ripete due volte la stessa parola suscitando l'ilarità dei giocatori lì vicini. Proprio la parola ladrona dal labiale non si vede ma neanche con il cannocchiale. Eppure si sta montando tutto un gran caso. Marchisio reinventa l'inno di Mameli, Roma ladrona, per l'unità con il condirettore Giovanni Maria Bellu. C'è già il commento: Lippi ora accerti, utilizzando tutte le tecniche a disposizione, l'esito di quello che ha detto Marchisio. E se ha detto così, il che è molto probabile, già giudicato probabile, lo allontani dalla nazionale e lo faccia restare a Roma ladrona o dove gli pare, ma lontano dal Sudafrica. Sì, siamo un po' un paese ridicolo. Andiamo avanti. La questione dei tagli, tra l'altro, del calcio non comporta solo polemiche in Italia. Per esempio la Stampa ci fa sapere che anche la Spagna si indigna. Osceni 600.000 euro a testa. 600.000 euro è il premio per gli spagnoli, i giocatori spagnoli, nel caso vincessero il Mondiale. 600.000 euro a testa, anche se hanno fatto sapere che è tutto pagato, è tutto, come dire, vai a spulciare tra le sovvenzioni, scopri che la nazionale riceve dal governo il 6% del suo budget, il malloppo della ricompensa arriva dagli sponsor, i giocatori hanno accettato di tagliare tutti i bonus di percorso, dunque sarebbe tutto pagato in qualche modo dal mercato, dagli sponsor, eccetera, ma c'è chi si indigna. come chi si indigna ormai da giorni il giornale Oggi. La battaglia è questa, col titolo "Un esercito di papponi", per appunto in prima pagina. Oltre mezzo milione, chi sono i papponi? Oltre mezzo milione di amministratori pubblici. Se fate l'amministratore pubblico, Oggi il giornale vi dà del pappone. Ci sono perfino assessori al perdono. E tra bonus, contributi e sussidi lo Stato distribuisce a pioggia 300 miliardi l'anno, cioè si spara molto nel mucchio, cifre così. Oh, veniamo a chi con maggiore razionalità fa delle cifre basate su numeri ben precisi. Oggi il Sole 24 Ore mette a pagina 4 e 5 un'interessante indagine fatta dai tecnici dell'IFEL, vale a dire la Fondazione per la Finanza Locale, insieme all'Associazione Nazionale dei Comuni. Che cosa si è esaminato? Bilanci alla mano, si è esaminato come si traduce nei conti dei nostri comuni il patto di stabilità e la manovra appena approvata. Cioè, quanto ci verrà a costare se i comuni dovranno rispettare, come insomma è stabilito nella manovra, il patto di stabilità a partire dall'anno prossimo. Ebbene, ci sono conti amari a Parma e Torino. Nei due capoluoghi la stretta alle spese si colloca tra il 19 e il 23%. Ma attenzione, volete sapere come fa il Sole 24 Ore spesso con queste classifiche al lunedì? Dove la spesa dovrà essere tagliata per la quantità, per la percentuale maggiore? Al comune di Loreggia, 7.000 abitanti tra Padova e Asolo, possono mettersi l'anima in pace. Per rispettare il piano di stabilità il prossimo anno, il comune dovrebbe tenere in cassa 6 euro ogni 10 di spesa attuale, il taglio del 60,3%. Poi Mozzate, 8.000 abitanti, taglio del 47% della spesa. Vigasio, 42,9%. Questi sono comuni piccolini, ci sono i primi 20, non so, c'è Sant'Orso, Centallo, Cisano Bergamasco, Rossano Veneto, Ponzano Veneto, Borgo San Giacomo. E poi il costo pro capite, quanto costerà pro capite, sempre qui, se il rispetto del patto di stabilità. A Montalto di Castro, ecco il costo più alto, 760 euro pro capite per abitante. Poi Mozzate, 624 euro, Melilli, 435 euro. Insomma, c'è tutto l'elenco, andate a vedere tutta la classifica anche dei capoluoghi, soprattutto, come detto, Parma e Torino molto colpiti, tanto che parla, pagina 4, il sindaco di Torino, ma in questo caso è anche il presidente dell'ANCI, Chiamparino, un colpo alle aree più dinamiche. Eccola qui la critica al patto in questa intervista rilasciata a Gianni Trovati. Si colpisce un po' a caso e poi soprattutto si colpisce al nord, nell'area più dinamica del paese. Questo dice Chiamparino. C'è molto anche sulle donne in pensione a 65 anni. Il governo accelera, ma io non dico nulla di questo perché se ne occuperà tanto Oscar Giannino alle 9. Si occuperà di questo. E allora, capitolo tagli, anche oggi tagli ci sono stati, anche oggi di tagli abbiamo parlato. In primo piano. Se oscurano Santoro, un giorno di TV spenta. È questo l'appello di Adriano Celentano a pagina 7 di Repubblica, la prende da lontano, da molto lontano Celentano, dice: caro direttore, non credo che nel 2012 ci sarà la fine del mondo, anche se i segnali, guardate cosa sta succedendo, il petrolio, la BP e poi anche in Italia vogliono trivellare il bel mare di Sicilia, aprire le centrali nucleari. Vabbè, fatta questa premessa, ecco arrivare al succo della lettera. Sulla libertà di stampa, ad onore del vero, non ancora a regime. Tutti segni di squilibrio che vanno di pari passo con l'incazzatura del pianeta. Un altro dei tanti segni apparentemente di minore importanza è quello del direttore generale della RAI, il quale ha epurato la trasmissione di Michele Santoro, spezzato a metà la voce della Dandini mentre la danza di Ballarò si avvia ad essere più fuori che dentro. Ma il segno peggiore è quello che viene dalla gente, a cui Berlusconi rimbocca accuratamente le coperte, una specie di torpore dal quale gli italiani non hanno alcuna intenzione di destarsi. Perché destarsi vorrebbe dire reagire, combattere le ingiustizie contro la democrazia, il bavaglio, la corruzione, non certo con la violenza, ma con le stesse armi che impone Sua Maestà il profitto. lo sottolineo perché l'ha scritto maiuscolo. Fin dai tempi più remoti è stata l'arma più potente e moderna che ci sia. Ecco che allora, se il prossimo palinsesto della RAI lo decideranno i poveri anziché Masi, succederà che Santoro non potrà non andare in onda. Dobbiamo solo decidere il giorno. Non ha importanza se mercoledì, giovedì o lunedì. L'importante è che nessuno guardi la televisione nel giorno in cui Santoro è stato cancellato. Un buco nero per Rai e Mediaset che durerà finché egli non sarà riammesso col suo anno zero. Viene spontaneo domandarsi quanto potrebbero reggere sia la Rai che Mediaset il peso dei mancati introiti provenienti dalla pubblicità nel giorno in cui nessuno guarderà la televisione. Ecco una rivoluzione silenziosa che non avrà bisogno di finanziamenti. Sarà il giorno della nascita dell'antiprofitto che sconfiggerà i mali del profitto. Antiprofitto ho urlato perché anche quello era maiuscolo. Insomma, che Michele Santoro poi sia stato epurato dalla RAI non mi risulta, ma è una notizia poco importante in tutto questo. Questo è Adriano Celentano su Repubblica. Ora c'è molto sulla scuola. Si avvicina la maturità. Il liceo non ha i soldi per la maturità. Paghino le famiglie. C'è sul Corriere, c'è sulla Stampa. È una polemica che nasce a Putignano, un fatto di cronaca di Putignano, dove il preside Pietro Gonnella del liceo scientifico Maiorana ha detto: per pagare i 12 commissari d'esame alla maturità che inizia tra 2 settimane servono 47.500 euro. Il ministero ce ne manca 30.000, ne mancano 17.500. Cari genitori, mettete mano al portafogli non facciamo innervosire i commissari con l'idea che saranno pagati in ritardo, anche perché, fa sapere, alla maturità è bene tenerseli buoni i commissari. Sapete com'è, i ragazzi hanno bisogno di comprensione. Una iniziativa che il ministero, il ministro Gelmini, col suo staff giudica sbagliatissima. Faremo le verifiche, è illegittimo da parte delle scuole chiedere soldi alle famiglie. E poi questa frase: se qualche preside vuol fare politica dovrebbe candidarsi alle elezioni. L'ultima volta che un preside ha denunciato di aver finito i fondi è successo al liceo Keplero di Roma. Abbiamo scoperto che in realtà c'erano 50.000 euro in cassa. In realtà il dirigente dice: in cassa non ho niente, rischiamo anche un pignoramento per non aver pagato la tassa sui rifiuti. Equitalia ci ha chiesto il pignoramento. Insomma, una vicenda interessante, come quella che in tutta Italia in realtà sta un po' divampando nelle varie scuole. Se passate in qualsiasi scuola italiana troverete questo cartello: difendiamo il tempo libero, almeno il tempo pieno, almeno in tantissime scuole italiane c'è questo cartello. Il tempo pieno, se lo vuoi ti tocca pagare, è un'inchiesta di Flavia Amabile sulla Stampa, pagina 14, vale a dire c'è stato il via libera da parte dei comuni, dell'Associazione Nazionale dei Comuni, sul fatto che gli istituti potranno attingere soldi alle famiglie. E anche qua chiedere aiuto alle famiglie, e tanto che molti si chiedono: ma a questo punto qual è la differenza con le private? E anche qui il ministro Gelmini dice: è sbagliato, la realtà è che in tutta Italia il tempo pieno negli ultimi 2 anni è aumentato di quasi 3.000 classi. Quindi il tempo pieno è un tema che fa molto discutere. Le segnalazioni conclusive, è partito il Gran Classico, non è anche escluso che domani me ne occupi perché si avvicina l'estate. Jesolo e l'estate delle maxi multe, c'è su tutti i giornali. Ha comprato una pensionata una pochette da un Vucumprà, insomma, sulla spiaggia, 1.000 euro di multa. La legge c'è, il primo verbale è un'austriaca, il sindaco: basta gli abusivi sulla spiaggia, la turista: avevo speso 7 euro, sembrava un Vuitton e invece era una finta Vuitton, e ha dovuto pagare 1.000 euro. Tra l'altro, però, grande lezione, è austriaca. Che cosa ha detto? Non ha detto: faccio ricorso al TAR, vado al giudice di pace, vado di qui, vado di là. Siete severi, ma pagherò. Io vorrei fare un grande applauso a questa turista austriaca che ha detto: la legge è severissima, io ho sbagliato, non lo sapevo, ma pagherò. vorrei dargli la cittadinanza onoraria a questa cittadina austriaca. Noi avremmo fatto un ricorso a qualsiasi tribunale, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pur di non pagare questa multa. Invece questa austriaca ha detto: pagherò questa multa anche se la legge è severissima. Ma sapete com'è, in Austria ci insegnano a rispettarle evidentemente le leggi. Comunque il tema interessante, insomma, di questa che ha pagato 7 euro per, comprando sulla spiaggia una finta pochette, si è trovata con 1000 euro di multa. Infine concludo una notizia che c'è solo sul Corriere: la mail che incastra Briatore. La vicenda è quella del sequestro del mega yacht Force Blue. L'accusa di aver evaso le tasse sullo yacht e sul carburante di quasi 5 milioni di euro. C'è una mail che il PM Walter Cotugno ha, durante l'udienza davanti al Tribunale dell'Esame di Genova, ha esibito una mail di 5 anni fa del legale di Flavio Briatore, che inizia così: caro Flavio, ma sei matto? Vuoi che alla fine un magistrato si occupi della società e della gestione della barca? Secondo il magistrato, questa mail spiegherebbe che c'è un qualcosa che non va. La mail che incastra Briatore, intercettato un messaggio del legale, ma il PM, il PM tra l'altro dice, è un colloquio tra amici e dunque si può utilizzare. C'è anche questo tema, ma come, ha intercettato una mail? Sì, e l'ha esibita in tribunale. Allora votate a questo proposito, magistrati, allo sciopero, sciopero politico, dice Alfano, siete d'accordo? Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati in diretta, è il momento della nostra Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci qua. Ma siamo a scuola stamattina, ma ha tirato una penna. Gli ho tirato, sì, si è sentito forse in sottofondo. Era il rumore chiaramente di una penna scagliata. Perché me l'hai tirata, tra l'altro? Perché non so neanche per quale motivo ti è successo. Fa sempre ridere un secondo prima di andare in onda e poi i cocci sono suoi. Esatto. Allora, buongiorno. Vabbè. Buongiorno. E buon inizio settimana a tutti. Come al solito, questo sole splendente a Milano, come puoi vedere. Ma state tranquilli, perché 38 gradi, ho letto che stamattina su qualche sito, arrivano giovedì, un po' nel centro Italia, da quello che capisco, al nord non lo so ancora, però ho visto che le temperature incandescenti e roventi stanno arrivando finalmente per chi come me è appassionato di caldo, un po' meno per chi invece non lo tollera. Per queste persone all'interno delle proprie abitazioni, come sapete, c'è la soluzione, l'impianto di condizionamento. Allora questa mattina, per chi volesse acquistare il condizionatore, so che magari è un tema abbastanza originale per quest'ora della giornata per Soldi e dintorni, ma siccome anche questo è un acquisto anche oneroso per le proprie case e per chi vuole ovviamente avere un clima ragionevole nella propria abitazione, allora stamattina cercheremo di dare qualche buon suggerimento sia in termini di installazione di questo impianto, sia in termini di costi che possono essere sostenuti, con un esperto. Allora saluto e ringrazio di essere con noi a Soldi e Dintorni Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Intanto sarà un'estate molto calda, chi lo sa, magari potrebbe essere anche utile capire da voi quale tendenza potrebbe esserci. Ne sta già installando parecchi, Falco? Allora, l'installazione dei climatizzatori quest'anno è un pochino più lenta degli altri anni, anche perché l'installazione dei climatizzatori purtroppo da noi è ancora molto emozionale. Sarebbe meglio pensarci prima, sarebbe meglio pensarci durante la ristrutturazione dell'alloggio, perché si riesce a installare al meglio il prodotto migliore, quindi anche il prodotto che fa risparmiare durante il funzionamento, perché purtroppo le scelte fatte di corsa e emozionalmente all'ultimo minuto non sempre sono le migliori o quelle che si adatterebbero al meglio alla struttura edilizia, quindi anche è meglio perché, sempre pensarci infatti, prima. Infatti, anche perché non è che stiamo parlando di un apparecchio che esattamente si appende e comincia a propagare acqua, aria fredda, esatto. È qualcosa di un po' più complesso, appunto, proprio per quello che riguarda l'installazione. Senta, ma questa è una curiosità naturalmente. È un tipico macchinario, impianto, che ha delle novità tecnologiche anno dopo anno? Allora, il bello per gli operatori del settore della climatizzazione è che c'è un'evoluzione costante e continua, sempre alla ricerca del miglior rendimento. Rispetto alle macchine di 15 anni fa, le macchine odierne consumano decisamente meno e quindi è anche più interessante lasciarle accese, soprattutto, cosa che pochi sanno, anche per il periodo invernale, perché oramai le macchine da climatizzazione raffreddano e riscaldano con un'efficienza a volte superiore anche a quella di una caldaia. Chiaramente tutto dipende dalla temperatura esterna, sia d'estate che d'inverno. D'estate esiste solo il climatizzatore in freddo, d'inverno possiamo utilizzare la stessa macchina, se dimensionata correttamente, per riscaldare. Quindi se la spesa è fatta in maniera oculata, sicuramente anche nell'inverno, e quindi diventa molto più interessante l'installazione. Ci ha già dato un'indicazione più o meno pratica che può essere utile forse rafforzare i nostri ascoltatori, anche se non è entrato nel dettaglio. Il tema della temperatura, ecco, che differenza ci deve essere tra la temperatura all'interno dell'abitazione quando l'impianto di condizionamento appunto lo si attiva, il climatizzatore viene attivato, e la temperatura esterna? Allora, per non avere anche proprio anche uno spreco, chiaro, in termini di efficienza energetica. Allora, il consiglio che do io ai miei clienti, che è quello che probabilmente permette il maggior risparmio, è di non superare la differenza tra i 5 gradi o 3 gradi tra l'interno, l'ambiente interno e l'ambiente esterno. Questo perché è importante non tanto abbassare la temperatura quanto abbassare l'umidità. A pari umidità, probabilmente 3 gradi di differenza permettono comunque di avere un ambiente gradevole. Altrimenti si rischia di passare da un ambiente a 20 gradi, uscire fuori con 30 gradi sicuramente non è bello, non è piacevole, perché a questo punto si rischiano colpi d'aria e tutte quelle frasi che sentiamo dire: ah, l'aria condizionata fa male, la climatizzazione fa male, derivano soprattutto da questo uso scorretto degli impianti. Infatti. Allora, altre indicazioni pratiche per i nostri ascoltatori. Lei già ci diceva prima, è bene pensare ad installare un adeguato impianto, per esempio quando si sta ristrutturando casa, ammettendo appunto di non aver fatto questo lavoro in via preventiva e di pensarci adesso, perché magari si immagina che arrivi un'estate particolarmente intensa dal punto di vista del caldo. Che cosa dobbiamo fare? Intanto lei che cosa suggerisce? È chiaro che dipende un po' dalle dimensioni dell'abitazione, ma è meglio uno o più impianti oppure un impianto che, come dire, climatizza bene tutta l'abitazione? Qual è il suggerimento? Allora, il suggerimento credo sia sempre meglio avere un impianto che possa gestire la temperatura dei singoli ambienti in modo diverso, perché anche l'esposizione al sole non è la stessa, per cui non è detto che alla stessa ora del giorno abbiamo la stessa temperatura negli stessi ambienti. Per cui un conto è un ufficio dove abbiamo un uso magari simile su tutti gli ambienti, invece un'abitazione dove magari abbiamo bisogno della climatizzazione nelle camere da letto la sera piuttosto che nelle sale da pranzo durante il pranzo, per cui è meglio avere un impianto che possa essere gestito. E la cosa importante è utilizzare tecnologie possibilmente di ultima generazione, perché basta pensare solo alle macchine inverter che adeguano la potenza del consumo elettrico al reale fabbisogno termico, e quindi a questo punto diventa veramente interessante. Una cosa importantissima per gli impianti in essere in funzione è la manutenzione, perché una non corretta manutenzione degli impianti, quindi una macchina esterna non pulita, quindi magari intasata dalle foglie, piuttosto che dei filtri sulle unità interne sporchi, non solo i filtri non permettono una corretta qualità dell'aria, ma addirittura rischiano di sovraccaricare la macchina come consumo elettrico, perché la macchina andrebbe a sforzare. Come in che tempi va fatta la manutenzione Falco? Un po' come funziona per le caldaiette, per l'erogazione del gas all'interno dell'abitazione, una volta l'anno, una ogni 2 anni? Allora, è chiaro che un tecnico mi può dire che più va fatta, meglio è. Più frequentemente viene fatta, meglio è. Di climatizzazione è importante che l'utente conosca la propria macchina e guardi la propria macchina. Quindi verifichi visivamente proprio le cose principali, come ho detto, la macchina esterna e i filtri interni. Poi, quantomeno un controllo annuale prima dell'inizio della stagione estiva per verificare la corrente di assorbimento e la carica del gas è consigliabile, perché una macchina che funziona a scarica si danneggia il compressore, si danneggiano i componenti. Quindi diventa molto più oneroso andare a riparare la macchina piuttosto che un piccolo intervento per verificare questi piccoli parametri. Falco, quanto costa un impianto di condizionamento adeguato, voglio dire senza strafare, senza spendere, per un'abitazione normale, 80 metri quadri, 100 metri quadri? Adesso io abito in un posto di dimensioni un po' più ragionevole, Alessandro Milan, che invece abita in una villa a 4 piani, evidentemente quanto dovrebbe, adesso a parte non sto scherzando perché allora ce l'ho qui davanti e mi sta tirando delle penne stamattina, però insomma un costo ragionevole che una famiglia di 4 persone per climatizzare adeguatamente la propria abitazione, quanto può spendere? Allora, può veramente variare tantissimo dal tipo di modello e macchina. Consideriamo che un'unità circa 800 euro ad ambiente può essere una spesa abbastanza ragionevole e che ti permette di comprare, acquistare, installare delle tecnologie abbastanza valide. Però consideriamo che se uno entra al supermercato vede uno splittino, un'unità interna con un'unità esterna, che parte anche da 300 euro, per cui sono prezzi estremamente variabili. L'impianto di climatizzazione è come un vestito sartoriale che va cucito sulla persona, in questo caso sulla persona e sulla casa, sull'abitazione. È molto importante importante avere un tecnico fidato che venga presso la casa a visionare. Un'ultima cosa, Falco, perché poi devo salutarla, invece per la manutenzione annuale un tecnico quanto ci deve far ragionevolmente spendere? Può andare all'incirca sui... l'ho messa in difficoltà. 70 euro a macchina. Non abbiamo capito, me la puoi ripetere la cifra? Sì, circa 70-80 euro a unità esterna e unità interna. Poi varia veramente tanto in funzione dell'impianto, perché un impianto canalizzato ha bisogno di manutenzione diversa e attrezzatura diversa, per cui potrebbe anche essere più caro. Io la ringrazio per essere stato con noi, buone installazioni. Allora, buona giornata, a presto. Luca Falco di Confartigianato. Alessandro. Eccoci qua. Oggi il Sole 24 Ore pubblica il dossier università, molti ragazzi stanno cingendosi a fare la maturità, quindi penseranno anche a che cosa fare dopo. Speriamo stamattina di dare qualche suggerimento utile a tutti. A Salva Danai. Poi ci vediamo domattina. Quando sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora parliamo dei magistrati e dello sciopero dei magistrati nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Sciopero programmato dai magistrati contro la manovra, uno sciopero che il ministro Alfano giudica un atto politico. Siete d'accordo con questa definizione? Questo vi chiediamo oggi, radio24.it per votare. Devo dire che vi state dividendo, il 55% dice di sì, il 45% no, ma insomma 800 24 00 24, se volete intervenire, o gli sms al 349 238 6666. Intanto saluto il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini. Dottor Cascini, buongiorno. Buongiorno a lei e ascoltatori. Senta, ci spieghi in poche parole perché non è, come ha scritto ieri Libero, che ha titolato l'oro dei giudici, insomma dipingendovi come una casta di nababbi, che lavorate poco, guadagnate molto, con scatti di anzianità non legati al merito, e vi permettete pure di scioperare contro la manovra. Guardi, il giornale, il quotidiano Libero, così come il quotidiano Il Giornale, hanno da tempo preso l'abitudine di diffondere bugie sulla retribuzione dei magistrati. E ci sono i dati che parlano, la magistratura italiana è al 17° posto in Europa come retribuzioni, sono dati della Commissione europea sul funzionamento della giustizia, e al 1° posto come produttività, cioè come quantità, numero di sentenze emesse dai magistrati. Non è vero che guadagniamo molto, è vero che, come è giusto che sia, i magistrati devono essere pagati adeguatamente, perché è interesse dello Stato avere una magistratura professionalmente qualificata e quindi rendere questa professione appetibile, e anche evitare che il magistrato sia sensibile a lusinghe o a bisogni di tipo economico. Ma se noi guardiamo il livello delle nostre retribuzioni, sono più basse della gran parte della dirigenza pubblica nel nostro paese, soprattutto nella prima fase della carriera, che è la fase della carriera che viene colpita dalla manovra. E voi dite vengono colpiti soprattutto i magistrati cosiddetti di prima nomina, che avranno decurtazioni dalla manovra del 25%, mentre quelli più anziani del 2%. Quindi è una battaglia che fate in nome delle, diciamo, delle nuove categorie, dei giovani della magistratura? Guarda, è una mera battaglia sindacale per l'equità fiscale. Diamo il nome alle cose, questo è un prelievo di natura fiscale, fatto non si sa perché solo nei confronti dei dipendenti pubblici. Fatto un prelievo fiscale per ragioni straordinarie, per una crisi economica, si dovrebbe fare nei confronti di tutti i cittadini e si dovrebbe fare in maniera proporzionale al reddito che queste persone... Ma sentite, adesso anche il calcio vogliono bloccare, cioè è un periodo così, insomma, anche il calcio... Sì, ma guardi, io non sono per niente contrario a colpire tutte le ricchezze e tutti i redditi, si dovrebbe farlo in maniera equa e proporzionata. Se una persona guadagna 3 milioni di euro dovrebbe pagare di più di uno che ne guadagna 40.000. Siccome qui abbiamo i grossi manager pubblici e i grossi manager privati, stiamo ancora aspettando che il ministro Tremonti emani il regolamento per fissare i tetti massimi di retribuzione dei manager pubblici. Sono 2 anni che il Ministero dell'Economia conserva questo regolamento senza ancora emanarlo. Io credo che andare a prevedere un terzo dello stipendio a un magistrato di prima nomina che guadagna 40.000 euro lordi, cioè 2.000 euro netti al mese, che deve andare in Sicilia a trovarsi casa e iniziare un'attività professionale come questa, secondo me non è una cosa giusta. È una cosa anche per troncare, diciamo, se vuole anche scoraggiare la carriera. Intanto la stanno ascoltando, voglio salutare sia l'onorevole Enrico Costa del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E saluto dall'AIA, credo, il procuratore Cuno Tarfusser, che è stato procuratore capo a Bolzano, oggi è giudice alla Corte Penale Internazionale. Buongiorno, dottor Tarfusser. Buongiorno. Sono da lei tra un attimo. Onorevole Costa, intanto lei è stato molto critico, ha detto, è vero, leggevo sempre ieri sul Libero che vi stanno contattando, la stanno contattando magistrati che evidentemente profilano uno scenario diverso da quello che ci ha detto Cascini e che non sono d'accordo con questo sciopero. Devo dire che noi abbiamo avuto moltissimi contatti di colleghi del dottor Cascini che ci hanno evidenziato come non condividessero affatto di essere trascinati in quella che è una contesa politica, ma sono soprattutto magistrati anonimi nel loro lavoro, coscienziosi, puntuali nell'attività quotidiana, magistrati che non ambiscono a balzare all'onore delle cronache, che non ambiscono a balzare in politica dal palcoscenico della magistratura. Sono coloro che lavorano sul campo tutti i giorni e non amano veramente essere trascinati. Che dice che Cascini non lavora, no? Questo no, io non dico che Cascini non lavora, magari lavora molto più degli altri, perché l'attività sindacale che sta svolgendo contro il governo penso che lo occupi 24 ore su 24. Devo dire che però probabilmente Cascini non si è letto tutti i dati. Si dice che i magistrati italiani guadagnano molto meno di altri colleghi. 17° posto in Europa. 17° posto in Europa. Io invece dico che i magistrati italiani, e partiamo da questo dato, rispetto a tutti gli altri dipendenti statali, hanno avuto dal 2001 un balzo fortissimo di stipendio. Mentre l'aumento, l'incremento medio dei dipendenti statali è stato del 12,8%, parlo dal 2001 al 2005, per sì. I magistrati è stato del 26,2%. Quindi lei contesta questi dati, anche secondo lei è uno sciopero politico, come ha detto il ministro Alfano? È chiaro che è uno sciopero politico, ma l'ANM fa politica da quando io siedo in Commissione Giustizia, ormai da 4 anni, sì. Mi pare di non aver mai trovato un provvedimento, io parlo del governo di centrodestra, quindi soprattutto negli ultimi 2 anni, un provvedimento che non sia stato vivisezionato e contestato dall'ANM, pari pari a quello che fa il gruppo dell'Italia dei Valori. Mi pare che viaggino insieme e viaggino congiuntamente, e se il gruppo dell'Italia dei Valori fa politica a pieno titolo, l'ANM dovrebbe essere composta da soggetti che rispettano la legge e la fanno rispettare ai cittadini. Il sindacato dei magistrati come l'Italia dei Valori, ma su questo Cascini risponderà tra poco. Prima fatemi andare un attimo al procuratore Tarfusser, uno che quando era in Italia a Bolzano è stato scandagliato, esaminato per quello che è stato definito il modello bolzano, cioè con pochi soldi, con poche risorse, ma riorganizzando con efficienza, con utilizzando i manager, informatizzando, insomma quello che il procuratore capo può fare, ha rimesso in piedi, ha fatto una sorta di modello bolzano, una procura che funzionava meglio rispetto alle altre, per questo ha avuto certificazione internazionale, è stata studiata a livello nazionale. Procuratore Tarfus, le chiedo intanto, vista da lì, adesso, dall'AIA, questa polemica, come le appare? Intanto voglio dire che tanto sono bravo che mi hanno mandato all'AIA, giusto? Ma guardi, noi abbiamo sempre detto non è vero che l'avranno mandata via, l'ha chiesto lei, però ci sta dando una notizia, cioè ci sta dicendo che l'hanno spedita via, no? No, ma non è che mi hanno spedito, però insomma cioè non sono stato utilizzato in Italia. Ah, questo vabbè, sono, questo, allora, questo è un dato di fatto. Siccome si è sempre detto che lei ha fatto questa richiesta, credo sia stata volontaria ad andare. Non ho fatto nessuna richiesta, non è stato nessuna. Mi è stato chiesto. Promoveatur ut amoveatur, va bene, è stato... Va bene. No, questo no, lo registriamo, procuratore, intanto. No, ma non è polemico, dico solo un dato di fatto, è che io sono all'AIA e non sono stato utilizzato in Italia, e che per venire all'AIA mi è stato chiesto, non è che io l'ho chiesto, io non ho chiesto niente a nessuno. E allora ci dica cosa farebbe, come la vede lei e cosa dovrebbe fare secondo lei? Io intanto voglio dire che io sono uno che sono ontologicamente contrario allo sciopero, tant'è che tutti gli scioperi che sono stati indetti negli ultimi anni da parte dei magistrati, io mi ho sempre aderito, ma in realtà non l'ho mai attuato. Ma detto questo, visto adesso dal di fuori, io capisco e condivido il senso di umiliazione, di frustrazione, di esasperazione che c'è nella categoria e che ha portato alla proclamazione di questo sciopero, laddove la questione economica, a mio parere, è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso colmo da tempo. Perché siamo da anni addettati al pubblico ludibrio come fannulloni, politicizzati, il cancro della società, i comunisti, in maniera assolutamente indiscriminata. Da anni i problemi veri non vengono affrontati. Se lo si facesse davvero, credo che il servizio al cittadino migliorerebbe e si recupererebbero enormi risorse senza adesso dover tagliare gli stipendi. Da anni si vendono ai cittadini per veri problemi assolutamente fasulli, per esempio, che questi risolvono i problemi. Ma sì, ma il problema della separazione delle carriere, adesso le intercettazioni, gli indulti, il processo breve, l'obbligatorietà dell'azione penale che va rivista e tutte queste cose che non sono assolutamente i problemi della giustizia. E adesso, alla fine di tutto questo, ma ci sarebbe tanto altro, la tagliola sugli stipendi e sulle carriere, che non riguarda solo noi ovviamente o come magistrati, ma riguarda tendenzialmente gli statali, perché è una misura facile, meno impopolare di aumentare le tasse in maniera proporzionale come ha detto Cascini, si fa una tassa sostanzialmente sugli statali. Secondo me sarebbero tra poco, un anno, tra due anni saremmo punto a capo, non avremmo fatto gli interventi strutturali perché anche quelli sono impopolari e abbiamo fatto un po' di cosmesi di bilancio per tenerci a galla. Questo è il problema. Lei dice sono altri problemi, vediamo qualcosa. Cascini ha già detto, cioè si vuole colpire sugli stipendi degli statali e quindi anche dei responsabili della funzione pubblica, quindi anche dei magistrati, ma non si vogliono fare cose, per esempio l'accorpamento dei piccoli tribunali. Vediamo un ascoltatore, andiamo al traffico e poi ripartiamo da questo. Luca da Napoli, buongiorno. Luca, che pronto? Dice? Dica Luca, pronto? È in diretta. Volevo dire che la proposta dei magistrati di sciopero è assolutamente scandalosa, perché guadagnano delle cifre esorbitanti, glielo dice uno che fa il dirigente pubblico. Eccolo lì, vede Cascini, esorbitanti. E che ha uno stipendio inferiore a quello di colleghi che sono passati in magistratura e che mi dicono, sai Luca, dopo appena entrato guadagno 10 euro meno di te che ci sei da 10 anni, però vado a lavorare 3 volte a settimana. Oh, ecco. Se lo dice a Cascini posso citare nome e grado magistratuale di questa persona. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mille. Bianco o nero? Allora, sciopero politico, dice il ministro Alfano ai magistrati. Allora, Cascini deve rispondere sia all'Italia dei valori, che Costa dice siete come l'Italia dei valori. E poi, insomma, vede, siamo sempre lì, la gente non ci crede al fatto delle cifre non esorbitanti. Faccio dire due cose. Sulla questione dell'Italia dei valori io francamente nemmeno mi sento di rispondere. Noi diamo un contributo di riflessione e di esperienza sui testi legislativi che vengono proposti. Mi dispiace che ogni volta che noi cerchiamo di dare un contributo questo venga preso come un'aggressione politica. Se l'onorevole Costa si guarda il percorso di alcuni disegni di legge discussi in questi anni, vedrà che il contributo dell'Associazione Nazionale Magistrati ha consentito di evitare degli errori, quindi forse non siamo così come ci dipinge. Seconda però sugli questione. Stipendi, mi scusi, il ministro Alfano ha detto guardi che sulla questione effettivamente dei magistrati di prima nomina forse si può rivedere, perché ecco, effettivamente lì i tagli ci sono. Questa apertura, non anche oggi Frattini, guardi, lo dice sul Corriere, lo sciopero è politico, guardi, ma apriamo su questo. Che si fa questo errore di discutere se i magistrati guadagnano troppo o troppo poco, no? Come se questo fosse l'oggetto della discussione in questo momento. Allora io sono pronto a fare una discussione sulle retribuzioni dei magistrati in qualunque momento. Io penso che sia un interesse del Paese retribuire bene la magistratura, perché questo ci dà la garanzia di rendere questo mestiere appetibile a persone brave e quindi avere magistrati più qualificati e consente che i magistrati abbiano una indipendenza economica, per esempio possano comprarsi un'abitazione, possano comprarsi la casa senza farsela comprare da qualcuno come fanno certi ministri, e quindi ci garantisce di più. Però non è questo l'oggetto della discussione oggi, è se sia giusto far pagare un contributo straordinario per la crisi economica a qualcuno in misura maggiore di altri e farlo pagare a chi guadagna di meno. È solamente questa la questione. Cioè, io domando perché una persona che guadagna 3.000 euro al mese, siano questi troppi o troppo pochi, deve pagare il triplo di chi ne guadagna 30.000 al su mese. Questo, solamente questa la questione. Onorevole Costa, non credo che si possa rispondere che è giusto perché i magistrati sono cattivi o antipatici al governo. Su questo, capito? Onorevole Costa, l'apertura a dire si taglia troppo per chi guadagna meno e si taglia meno per chi guadagna troppo, questo è il paradosso che denunciano i magistrati. Mi lasci dire, fare una considerazione solo sullo sciopero. Io avrei apprezzato un senso dello Stato da parte dell'ANM se invece che chiedere di fare una giornata di sciopero, posto che la situazione, mi pare, dell'arretrato della giustizia è notevole, avessero detto: va bene, guardate, noi diamo un segnale forte, oggi lavoriamo doppio, teniamo udienze il mattino e teniamo udienze il pomeriggio. Questo sarebbe forse stato un segnale apprezzato anche dai cittadini. No, invece in questa situazione dell'arretrato giudiziario i magistrati decidono di starsene un giorno a casa. Perché? Perché ritengono che i sacrifici chiesti a tutti gli italiani non siano di loro competenza. Ebbene, hanno ragione i magistrati quando dicono che è giusto che ci sia una dignità, ci sia la possibilità di acquistarsi un alloggio, e non come tanti loro colleghi che magari sono stati anch'essi, come i politici, come alcuni politici indagati per non aver fatto il loro dovere. Noi auspichiamo che i magistrati aumentino il monte di fascicoli che evadono quotidianamente. Sì. Sappiamo che nel 2001 erano 654 fascicoli. Ma se Cascini ci dice che per numero di sentenze siamo i primi in Europa, allora sono diminuiti di 100 nel giro di 5 anni i fascicoli evasi da ogni singolo magistrato. Probabilmente a casa avranno anche altre cose, oltre che quello di svolgere i loro adempimenti. Per questo il ministro Brunetta aveva Tornelli detto, facciamo in modo che lavori i tornelli, eccoli lì. Ma io non dico i tornelli, facciamo in modo che lavori in un tribunale e non facciano le loro sentenze dalla allora lo voglio chiedere a Cuno Tarfus, procuratore Tarfus, i magistrati lavorano poco? Ce lo dica lei. No, ma io trovo ridicolo questa discussione assolutamente inutile su questioni veramente stupide, se a casa facciamo altre cose, non altre cose. Cioè, onestamente, i magistrati ci sono quelli che lavorano tanto, ci sono quelli che lavorano tantissimo, ci sono quelli che lavorano poco, come in tutte le categorie. Io credo che sia un problema di riforme strutturali, di riorganizzazione del sistema. Io solo riorganizzando il sistema riesco a liberare delle risorse. L'onorevole Costa sa benissimo che in Piemonte ci sono 17 tribunali, 17 tribunali che si potrebbero veramente ridurre a quanti ne servirebbero, liberando le risorse, accorpando risorse in meno tribunali. Cioè, così si fanno le riforme, non tagliando sugli stipendi, ma non dico sugli stipendi dei magistrati, tagliando sugli stipendi. Bisogna riformare la pubblica amministrazione in maniera seria, la giustizia ne fa parte di questa pubblica amministrazione, così si liberano le risorse, perché riformando e ristrutturando si dà un servizio migliore al cittadino a un costo inseriore. Però dottor Tarfus, questo è quello che abbiamo fatto noi a Bolzano. Però in diverse interviste, dottor Tarfus, aveva anche detto, ha spesso anche usato dei toni nei confronti dei suoi colleghi della categoria, dire: oh, sento per esempio spesso lamentele, manca la carta, la carta si compra. Io la leggo nella sua intervista. Ma assolutamente sì, ma io non mi sottraggo alla critica dei magistrati, ma qui stiamo parlando di questioni economiche. Cioè, i magistrati sono colpevoli per la loro parte, per la parte organizzativa di ciascun ufficio, come lo è il governo, ma non dico questo governo, i governi che si sono succeduti negli anni per quanto concerne l'organizzazione e la struttura della giustizia in senso nazionale. Ognuno deve fare la sua parte, ma non si può più andare avanti avendo degli uffici organizzati come lo erano negli anni 60. E cioè, come questo continua. Sì, sentiamo Luisa da Roma. Pronto? Luisa, sì. Posso parlare? Prego. Posso parlare? Spenga allora, la radio, io però. Intanto voglio dire che i magistrati dovrebbero fare veramente la loro parte. No, lei Luisa deve spegnere la radio perché è insopportabile questa eco. L'ha spenta? Ecco, la loro parte i magistrati non la fanno, parlo del lavoro che dovrebbero fare. Io ho avuto una causa, è durata 14 anni, veniva rimandata, una volta era ammalato, un'altra volta aveva tutto in casa, un'altra volta così. Cioè sempre poi il magistrato, non è che magari una volta c'era il cancelliere, c'era ma poi volevo, sì, ma l'avvocato, la notifica, io no, sempre colpa del magistrato. No, sempre colpa no, quando c'è colpa io lo dico, io sto parlando della mia causa, non quella degli altri. Poi volevo vedere il fascicolo, a un certo punto ho detto voglio vedere questo fascicolo, sa come me l'hanno fatto vedere? Guardi, sta lì, lo cerchi là, lo trova. Io l'ho preso senza essere controllata il fascicolo, l'ho preso, l'ho guardato, l'ho riguardato, sono stata corretta perché ho lasciato le pagine come erano, ma erano tutte scomposte. E poi me la dice, adesso che devo fare? E lo faccio dove le pare, e questo via in tribunale. Potrebbe cose. Andare avanti chissà quanto, Luisa, però io voglio concludere con questa storia di vita quotidiana, insomma, sa quante sono come lei, ma insomma io sono un po' come dice il procuratore Tarfus, facciamo le vere riforme, accorpiamo i tribunali, come dire, facciamo scomparire le province, sì, facciamo accorpare i comuni piccoli, sì, aspettiamo, vabbè. Grazie, ci fermiamo. Ringrazio tutti i nostri intervenuti. Oggi saluto anche Gaia Romani in redazione e Peter Bescapè in regia, come al solito. E che devo dire? Do la linea a Oscar Giannino, parla di pensioni e di donne, alzare l'età pensionabile. Chi lo sa? Ci troviamo domattina alla stessa ora, bianco o nero e radio24.it.